Linee d'ombra di Matteo Caccia. Sempre stato un rapporto non freddo, però distaccato, nel senso che lui era concentrato su quello là, pensava solo a quello. Nei giorni successivi, Sun, ancora frustrato dalle vicende del fine settimana, mi chiese il favore di svegliarlo ogni volta che lo avessi visto addormentato. Storie di studenti invasati e studiosi di ghiacciai in una puntata che si intitola Tutto per lo studio. Beh, anzitutto non era come lo si vede nel film, ovviamente, che è un film hollywoodiano, molto semplificato, anche parodistico in molti aspetti. Era una persona estremamente intelligente, tanto per cominciare, era un genio. Alcune delle sue scoperte hanno cambiato il mondo molto di più che questa qui. Infatti il computer in realtà è una sua vera invenzione. Ha fatto tante altre scoperte, per esempio l'intelligenza artificiale, che è un'impresa che sta andando avanti da 50 anni ormai, il 60 quasi, il tentativo di far fare ai computer quello che gli uomini fanno da un punto di vista del ragionamento, giocare a scacchi ad esempio, comporre musica, no? E cose di questo genere, di nuovo è un'idea sua. E alla fine della sua vita, quando ormai stava per morire, ma senza saperlo ancora, si mise a studiare problemi completamente diversi, per esempio come si formano le macchie sulla pelle dei leopardi o sulle zebre, no? Cose che legate con la morfogenesi, cioè com'è possibile che il DNA, che è un'informazione lineare, poi produca degli organismi come noi che siamo tridimensionali con le nostre caratteristiche, cose anche queste avveniristiche che poi sono state studiate da premi Nobel, in questo caso come Edelman, in questo caso della medicina e non dell'informatica. Quindi era veramente un uomo versatile, geniale, e morto poi appunto a 42 anni, no? Se avesse vissuto una vita normale probabilmente, no? come tutti, no? di 70-80 chissà cosa avrebbe potuto fare, certo. Forse qualcuno di voi l'ha riconosciuta, questa è la voce di Pier Giorgio Di Freddi che racconta la storia di Alan Turing in un programma di Rai Storia che si chiama D-Day. Racconta la storia di quest'uomo che ha dato, come moltissimi scienziati, tutta la vita per la conoscenza e per il sapere. Turing è stato raccontato in un film di qualche anno fa che si intitola The Imitation Game, un film con Benedict Cumberbatch che racconta grosso modo un pezzo della storia di Turing, che è legato al tentativo di decifrare una macchina che si chiamava Enigma, che era una macchina con cui i nazisti si mandavano messaggi. Lui era stato in grado di costruire uno strumento che di fatto decifrava il codice di questa macchina. È considerato l'uomo che ha inventato il computer, che ha inventato, diciamo, l'idea del computer, e appunto è stato un uomo anche molto sfortunato perché è morto giovanissimo, o meglio si è tolto la vita giovanissimo all'età di 41 anni per via delle persecuzioni che aveva subito da parte proprio delle autorità britanniche. Turing era omosessuale e era stato, diciamo così, scoperto, e quindi in preda a una frustrazione dovuta proprio a delle vere e proprie persecuzioni si è tolto la vita. Era il 1954, era poco dopo la guerra. Sembra davvero incredibile pensare come l'altro ieri una persona potesse essere addirittura perseguitato dalle autorità del proprio paese per il fatto di essere omosessuale. Poi ahimè questa cosa succede tutt'oggi, non dalle autorità, o perlomeno si spera non dalle autorità, ma da parte di quelli che vengono definiti bulli, che è una cosa che io non mi spiegherò mai per quale motivo ad alcune persone danno fastidio le persone a cui piace una sessualità diversa dalla propria. Non me lo spiegherò mai, non capisco il motivo. Cioè, se ti dessero fastidio, io potrei capirlo. Cioè, se nel compimento del proprio desiderio sessuale una persona viene a dare noia a te, allora va bene. Ma se uno a casa sua, in macchina sua, nel locale suo, fa quello che vuole, ma dove sta? Ma perché? Ma non è questo quello di cui parliamo qui a Linea d'Ombra. Raccontiamo storie, non facciamo opinione, non facciamo ideologie, raccontiamo storie, lasciamo che le storie vadano per la loro strada. Perdonatemi, è stato probabilmente l'intimità della casa, visto che, come sapete, Linea d'Ombra va in onda ancora. Di fatto ho registrato la casa, cerchiamo di lasciare il più libero possibile lo studio di Via Monterosa per le trasmissioni che hanno a che fare con l'attualità più stretta, e quindi i conduttori devono andare in onda dallo studio, e quindi appunto sono a casa ormai, nello stanzino in cui parlo al microfono da più di un mese a questa parte. Probabilmente l'intimità della casa mi ha lasciato andare a questa considerazione, ma tant'è, torniamo subito a raccontare le storie, perché la puntata si intitola Tutto per lo studio. Abbiamo sentito appunto Odi Freddi che accennava la storia di Alan Turing, e vi raccontiamo invece due storie che hanno a che fare con quella che sembra la follia di uno studente orientale che si impedisce di dormire per studiare tutto fino alla fine, e poi la storia di uno scienziato che si trova davvero quasi alla fine del mondo in Artico per studiare i ghiacciai. Benvenuti a Linea d'Ombra. Era il 3 agosto del 2012, 8 anni fa, quando arrivai a Singapore per trascorrere un semestre di studi presso la Singapore Management University. L'inizio dei corsi era programmato per il 20 agosto, ma per ambientarmi al meglio, avevo deciso di anticipare l'arrivo nella calda metropoli del sud-est asiatico, quasi 3 settimane prima. L'ostello che avevo scelto era in pieno centro. Pensai subito che il destino mi aveva spinto a rifiutare l'alloggio periferico offerto dall'università per farmi godere al meglio la vita di una città così meravigliosa. Ancora non sapevo che il destino voleva solamente farmi conoscere Sun. L'ostello era abitato quasi esclusivamente da ragazzi asiatici, e tale era anche il mio compagno di stanza, Sun, studente coreano di master in architettura. La sera del nostro primo giorno di convivenza, Sun mi chiese: «Scusami, è un problema per te dormire con la luce accesa in stanza?» Per fortuna mi spiegò meglio il significato di questa richiesta. Sun era solito dormire 3 ore a notte perché aveva troppo lavoro universitario da svolgere. La famiglia aveva investito i risparmi di una vita per finanziare il suo master, e Sun doveva perciò assolutamente risultare tra i primi 5 studenti della classe. Ho ricordi di una persona che appunto era concentrata moltissimo in quello che faceva, perché appunto io magari non trascorrevo tantissimo tempo in stanza, ma quando stavo in stanza lui non smetteva un attimo di studiare, di segnare. Mi svegliavo magari durante la notte, lui stava là a studiare, disegnavo, mi risvegliavo la mattina e stava ancora a disegnare, studiare, quindi non c'era un momento di pausa. Magari all'inizio ho pensato che fosse un momento transitorio, ma poi durante la vita di tutti i giorni mi sono reso conto che quello era il suo proprio carattere, il suo approccio, e di fatto mi trovavo sempre un po' in imbarazzo, perché da un lato viviamo nella stessa stanza, dall'altro ci parlavamo poco. Io ogni tanto cercavo di attaccare il bottone, ma non che io sia particolarmente estroverso, però stare vivendo nella stessa stanza, magari scambiarsi 2 parole, aprirsi, lo ritenevo in qualche modo corretto, carino. Non lo disse esplicitamente, ma compresi subito che Sun non avrebbe avuto il coraggio di tornare a casa se non avesse ottenuto la tanto agognata A+. Se volevo continuare ad essere una brava persona, potevo solamente dire di sì, ovviamente, alla sua richiesta. Acconsentì perciò a trascorrere tutte le notti con la luce accesa. Sun trascorreva ogni minuto a studiare e a disegnare. Disegnava benissimo e soprattutto disegnava ad una velocità pazzesca. Più passava il tempo e più la nostra piccola stanza era sommersa dai suoi disegni. Ogni tanto provavo a parlarci, ma riuscivo a catturare la sua attenzione solamente per pochi secondi. Un giorno gli chiesi: «Sun, ma tu sei fidanzato?» Mi rispose: «Sì, ma sono 4 mesi che non la sento, non ho tempo libero per queste cose». Per quieto vivere io risposi semplicemente: «Ah beh, certo, ti capisco perfettamente». Ci sono degli eventi della vita che segnano un prima e un dopo nella relazione con una persona. Ecco, il weekend trascorso a Malacca con dei colleghi francesi rappresenta il mio evento prima e dopo con Sun. Oh, baby, you know I'm wasting my time, my anymore. Al ritorno da questo mio viaggio, trovai infatti in stanza una sorpresa. Tutta quanta la camera era tappezzata da post-it con frasi motivazionali, tipo queste. Prima regola per il successo, non dormire mai. Oppure, stai attento al sonno. E ancora, se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi non puoi permetterti pause, non perdere mai la concentrazione o anche attenzione a non dormire troppo. Per fortuna, anche in questo caso, Sun comprese subito la necessità di fornirmi dei chiarimenti. Mi spiegò che questa sua iniziativa era dovuta al ritardo nella sveglia di domenica mattina. Sun aveva commesso il terribile errore di svegliarsi alle 9:10 del mattino. Afflitto da rimorsi e sensi di colpa, aveva deciso di scrivere delle frasi che gli ricordassero l'importanza di non commettere errori così gravi e imperdonabili. Mentre pronunciava queste parole, percepivo il senso di rabbia che lui provava contro se stesso. Nei giorni successivi, Sun, ancora frustrato dalle vicende del fine settimana, mi chiese il favore di svegliarlo ogni volta che lo avessi visto addormentato. Ero uno studente come qua, diciamo, ero molto dedicato allo studio, senza dubbio, però ovviamente avevo un approccio allo studio differente rispetto all'Italia, nel senso che in Italia studiavo prevalentemente da casa, là invece cercavo di non studiare mai in stanza, ma non per lui, proprio per me, per stare con altre persone, quindi studiavo moltissimo in biblioteca. Tornavo in casa verso le 6, lui appunto stava là, dopodiché magari rimanevo fino a ora di cena, lui nel frattempo andava alla food court che era là vicino, dove appunto si poteva prendere il take away, e non mangiava mai alla food court, ma si portava sempre il cibo in stanza, quindi anche quello lui mangiava sempre in stanza, per cui avevamo questa stanzetta piccola con tutti i suoi odori del suo mangiare dentro la stanza. E poi niente, io magari dopo a cena appunto uscivo sempre, la sera stavo fuori, ma non necessariamente per stare con gli altri, ma anche per passeggiare, perché a me piace molto passeggiare. E poi quando tornavo lo ritrovavo sempre là a studiare. L'unica cosa che si concedeva appunto era quella del take away. I ritmi di studio del mio compagno di stanza aumentavano di giorno in giorno e compresi che a breve sarei stato chiamato ad adempiere al mio dovere. Una mattina mi svegliai e vidi Sun addormentato sui libri. Erano solamente le 8 del mattino, ma sapevo che per Sun sarebbe stata un'altra sconfitta. Forse per lui sarebbe stata la sconfitta. Inizialmente non ebbi il coraggio di svegliarlo, ma trascorsa una mezz'ora non avevo più alternative. Lo chiamai delicatamente e subito si svegliò. Sun vide l'orario e cominciò a correre urlando tra la stanza e il bagno. Per qualche minuto rimasi ad assistere alla scena, ma poi, spaventato, anzi felice per aver assistito ad una di quelle storie che si raccontano ai nipoti, andai all'università. Ci sarebbero tanti episodi che potrei raccontare. Voglio però solamente mettervi a conoscenza di come è finita questa mia relazione. Una mattina di novembre, Sun mi disse: «Scusami, ma devo andare a vivere con una persona che non mi stimoli il sonno. Vivrò con un amico che mi sveglierà ogni volta che mi addormenterò. Mi dispiace, ma tu dormi troppo e non è facile vivere con te». Io rimasi sorpreso da queste parole, ma risposi semplicemente: «Ok, va bene». Forse risposi così anche perché pensavo di poterlo rivedere e magari salutare con calma un'altra volta. Quando invece tornai a casa la sera, trovai la stanza vuota. Sun era già andato via. Questo è l'unico vero dispiacere della storia tra me e Sun che porterò per sempre nel mio cuore. In fondo avrei voluto solamente stringergli la mano, augurargli buona fortuna e dirgli: per fortuna al mondo siamo tutti diversi. Si intitola Tutto per lo studio, la puntata di oggi di Linee d'Ombra, e mi sembra abbastanza evidente il motivo per cui l'abbiamo intitolata in questo modo, perché la storia che ci ha raccontato Francesco, che arriva da Singapore, è una storia che parla di una, quasi direi, di una ossessione per lo studio. Pronto? Ciao Francesco, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te. Come stai? Dove ti trovi e in che tipo di quarantena ti sei? Che tipo di vita stai vivendo segregato? Io sono qua a Roma, segregato in casa in smart working, per cui, come si dice in questa occasione, sono uno di quei privilegiati a casa. Perché tu lavori per una grande azienda, di quelle che erano già pronti via, sapevano già come fare per lo smart working? Eravamo già pronti, quindi non c'è stato problema nella transizione, okay. Dai. Ok, che tipo di azienda è, se posso, per capire? È una grande azienda farmaceutica. Farmaceutica, ok. Quindi di solito le farmaceutiche sono pronte a tutto. Anche e soprattutto siamo pronti a tutto, non temiamo nulla. Senti Francesco, risale a 8 anni fa questa storia, dico bene? Sì, era il 2012, diciamo, è andata avanti da agosto a ottobre, adesso non mi ricordo la data, dico ottobre perché appunto io non me ne sono andato via ad ottobre, ma appunto, come avete sentito dalla storia, sì, su un sito, è andato da casa, quindi è durata fino a ottobre qualche mese. Senti, l'hai vissuta come un'offesa personale oppure no? Hai proprio capito che era un caso strano lui? No, non l'ho vissuta come un'offesa personale, nel senso che io credo sempre che ognuno sia fatto a suo modo e quindi ognuno deve accettare gli altri per come sono fatti. Quindi lui era semplicemente molto concentrato per sue ragioni familiari, da quello che ho capito, e quindi ci teneva moltissimo. Poi un po' la mentalità asiatica appunto è quella di voler rispettare anche il volere della famiglia, per cui hanno dei valori che magari noi non riusciamo sempre a capire per la loro ossessione, perché a noi appunto sembra un'ossessione, ma magari per loro non lo è, semplicemente un fare il loro dovere al massimo. Ma quindi, scusami, quindi questa è una storia comune secondo te, nel senso che c'è questo livello di applicazione di metodo nel mondo orientale allo studio? Non vorrei generalizzare, però ad esempio mi ricordo anche dei casi estremi, mi ricordo anche che poco giorni prima degli esami c'era gente che si accampava nel campus con le tende, pronto poi per la mattina essere in prima fila. Okay. Librerie, in biblioteca, dovunque, quindi in qualche modo c'è un'applicazione che ovviamente non sarà mai generalizzata, però no, sicuramente certo, però più che da noi. La cosa che mi stupiva è che appunto lui ti dice a un certo punto: tu dormi troppo, io non ce la faccio, che è comprensibile, no? Per uno che deve stare sveglio, per una persona che dorme è complesso, ma certo. In realtà però tu non avevi dei regimi di sonno così lucido, cioè tu che orari facevi? No, magari normali, a parte qualche volta in cui facevo magari un po' più tardi, orari normali, mezzanotte, 11:30, poi la mattina mi svegliavo alle 7:30, ah, ok. 8, quindi... Appunto, insomma, non dormivi fino a mezzogiorno, questo intendevo dire. No, assolutamente non sono mai stato quel tipo, per cui nemmeno a dire appunto che chissà quant'era lo stupore nel vedermi dormire. Sì, invece certo, lui proprio aveva proprio un regime diverso e quindi magari aveva bisogno di uno stimolo diverso. Come ci eri finito tu a Singapore? E con un programma di studio, riscambi semestrali, quello che in Europa è l'Erasmus, quindi io stavo là invece per uno scambio bilaterale con l'università. E che ricordi hai di quel posto? Quindi, beh, meravigliosi comunque, perché poi sai, uno quando passa il tempo mitizza un po' tutto, no? Mm-hmm. E lo mitizza, poi se appunto l'esperienza è stata particolarmente bella la mitizza ancora di più, se poi è un posto ancora lontano ancora di più, se era un posto particolarmente bello ancora di più, quindi tutto diciamo in qualche modo ingigantito. Senti, di Sun ovviamente non abbiamo più notizie purtroppo. Eh no, ma perché ti dico appunto, lui è andato via dalla mattina alla sera. Dopodiché io durante comunque tutti quei mesi ho sempre cercato un po' di attaccare bottone con lui, con delle scuse, io non sono un tipo estroverso, però appunto ho sempre cercato di aprirmi con lui e ogni tanto lui si è aperto, ma veramente poco, c'era confessione quella del fatto che la fidanzata non la sentiva da mesi, ma poco altro, ecco. Quindi non hai mai avuto, che so io, degli amici che venivano, ma lui cosa, usciva a cena, come viveva al di là dello studio? Allora, io quando tornavo dall'università, magari verso le 6, stava studiando ovviamente, poi usciva, andava appunto alla food court, si prendeva il cibo e tornava in casa, e si lo mangiava in casa, in una stanza, noi stavamo in una stanza con un salottino con la televisione. Ah, ok. Quindi mangiava, dopodiché continuava a studiare, io magari uscivo per cena, lo ritrovavo a studiare, mi addormentavo e studiava. a volte si addormentava sui libri, poi la mattina quando mi risvegliavo lui o era addormentato sui libri o era sveglio, però non era quasi mai a letto, quindi sempre cose particolari. Solamente una sera mi ricordo che è uscito perché una sua amica l'aveva invitato, questa era una ricca milionaria e quindi l'aveva invitato, e allora lui aveva ceduto ad andare a questa festa. No, non uscirà mai, ecco. Senti, tu invece poi alla fine in cosa ti sei laureato? È in economia. In economia, ok. Quindi adesso, cioè, non sei un chimico farmaceutico, in azienda fai altro? No, ti occupi di cosa, che cosa fai? Tipo, oggi a cosa hai lavorato da casa? Diciamo tutte, per farla breve, analisi sì. di vario tipo, ecco, più di economiche, ecco. Ok, okay. Più che... Va bene, va bene. Non tediamo gli ascoltatori con qualcosa. No. È che io sono diciamo, sono appassionato per cose tecniche che non capisco, perché mi piace sapere che c'è qualcuno che le sa e io no. Però capisco che sono tecnicalità molto complesse. Ma non è nemmeno nulla di così tecnico. Ok. Quindi. Francesco, io ti ringrazio moltissimo. So che anche tua moglie è una grande appassionata del programma e quindi aspettiamo anche da lei una storia. E speriamo, dai. Va bene. Grazie ancora, Francesco. A presto, in bocca al lupo per tutto. Grazie a te, Matteo. Ciao. School day. For school days, how we used to run and play, oh baby, now those days are gone, but we keep on going on, wondering where they're gone. School day. Si intitola Tutto per lo studio la puntata di oggi e direi che abbiamo anche capito molto bene il perché, grazie alla storia che ci ha mandato Francesco, che racconta di Sun. Chissà che fine ha fatto Sun. Queste sono veramente quelle storie che mi lasciano come un piccolo buco. Mi domando cosa stia facendo in questo momento della sua vita, dove sia, se gli ha fruttato qualcosa tutta questa incredibile fatica e sofferenza, privazione di sonno. Vabbè, Sun, ciao ovunque tu sia. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linea d'Ombra. L'Italia come non l'abbiamo mai vista cambia noi e le nostre priorità. Code ai supermercati, film in streaming, tante torte, lavori in casa. Per chi lavora, tenere duro. L'economia delle piccole cose cambia, ma non vi lascia soli. Sono Anna Migliorati, vi aspetto ogni sabato mattina alle 7:15 su Radio 24. Linee d'ombra. In una puntata che si intitola Tutto per lo studio, la prossima storia che vi raccontiamo è quella di uno scienziato, cioè di uno studioso che studia il ghiaccio. Sapete che insomma lo scioglimento dei ghiacciai in questo momento non è più molto di moda, ma è uno dei temi principali, ha a che fare col riscaldamento del pianeta e con il fatto che i ghiacciai eterni, quelli che non si sciolgono mai, in realtà si stanno sciogliendo ormai da anni. Spesso vediamo delle immagini di come negli ultimi 20-30 anni i ghiacciai si sono ridotti e fanno veramente paura. Ecco, questi studi sono possibili grazie a persone come il protagonista di questa storia, che prendono e vanno in Artico o in Antartico, stanno lì e studiano, fanno delle misurazioni, passano del tempo, fanno dei calcoli, li danno a dei matematici, a degli statistici, e loro fanno delle mappe, di fatto dei grafici che ci permettono di capire come nel tempo il ghiaccio è cambiato, se è scivolato verso il basso, se si è sciolto e così via. Durante queste spedizioni ovviamente succedono delle cose che possono cambiare il corso della spedizione stessa e probabilmente il corso della vita di chi l'ha raccontata e di chi l'ha vissuta, e questa è una di quelle storie. Questa storia l'abbiamo trovata su Narrativli e si intitola The Secret Life of a Scientist at the End of the World, la vita segreta di uno scienziato alla fine del mondo. State con noi. Quando siamo partiti quella mattina c'era il sole e la superficie del ghiaccio era croccante e perfetta per i nostri stivali di plastica e i ramponi. Io e il mio studente ci eravamo ricoperti di cappelli e di crema solare per proteggerci dal riflesso del sole sul ghiaccio. Poi ci siamo diretti verso il ghiacciaio per controllare una stazione meteorologica e un misuratore di flusso e assicurarci ed essere pronti a catturare tutti i dati di cui avevamo bisogno quando sarebbe iniziato lo scioglimento dei ghiacci della primavera. È stata una lunga giornata. E quando siamo tornati giù dal ghiacciaio, verso il nostro campo, il mio ginocchio malandato ha iniziato a fare i capricci e camminare mi faceva male. a peggiorare la situazione, ci siamo resi conto che le cose sulla via del ritorno non andavano per niente bene. La giornata era calda e aveva sciolto la neve sul ghiacciaio più in basso, lasciando un passaggio di fanghi di ghiaccio e canali nascosti, circondati da piccoli cumuli di ghiaccio solido. Siamo arrivati a meno di 500 metri dal nostro campo, ma non potevamo andare oltre, perché c'erano due torrenti letteralmente di fanghiglia tra noi e il campo, troppo larghi e troppo profondi per essere attraversati. Il mio studente ci ha provato, ha cercato ad attraversarli comunque, ma la fanghiglia sembrava essere delle sabbie mobili. Ho dovuto urlargli di sdraiarsi e tirarsi fuori con le braccia, invece di cercare di spingere con le gambe. Un attimo dopo era rannicchiato nella coperta di stagnola, quella del kit d'emergenza, bagnato fradicio fino alla vita, ripetendo che non voleva morire. Grazie al cielo c'è la luce del sole 24 ore su 24, in quei mesi, sul ghiacciaio. E in piedi, lì, sul ghiaccio, tagliato fuori dal campo, con un laureando in pessime condizioni psicofisiche, ho preso la difficile decisione di chiamare il campo base, che distava oltre 300 km di distanza, col telefono satellitare, per chiedere loro di venirci a prendere. Scacciando una profonda sensazione di fallimento, ho premuto i numeri che mi avrebbero collegato al campo base. Dopo aver spiegato la nostra situazione, si sono messi in moto per trovare un pilota di elicotteri che avesse ancora sufficienti ore di volo in quella giornata, dato che la maggior parte di loro aveva esaurito le ore di quel giorno e avevano bisogno di dormire prima di poter tornare a volare. Una volta trovato un pilota, dovevano assicurarsi che fosse disposto a volare per 250 miglia per venire a salvarci. Superato il mio senso di fallimento, sono entrato nella modalità situazione di emergenza, che avevo imparato durante l'addestramento, nel caso in cui si debbano salvare le vittime dall'acqua, mettendo in atto il primo soccorso, mentre si parla con loro e si mantiene la calma. Ero preciso e in controllo mentre parlavo con la base per organizzare il nostro salvataggio. Camminando sul mio piccolo pezzo di ghiaccio, sedendomi ogni tanto sul mio zaino, parlando con il mio studente, cercando di rimanere positivo e di tenere la mente lontana dalle conseguenze a lungo termine di questo evento. E cioè che non saremmo più stati in grado di raccogliere dati nella parte inferiore del ghiacciaio, il che avrebbe lasciato un grosso vuoto quando il team di matematici avrebbe cercato di rappresentare numericamente quel ghiacciaio. In every corridor that shifted the maze, no single part of you was ever the same. Now we're so tired by the things we have seen. All we've forgotten only visits and dreams. How I misunderstood. Here I stand undressed. Here I confess my doubt. Did you know that I would? From this fractured lens, we're unveiled again and again. Sometimes I get the feeling I'm lost. Yes, hiding it is never enough. Now I find in every mirror a ghost. Only once I saw the killer. Misunderstood, my abandoned friend, the parade has already left. Sometimes I get the feeling I'm lost, just hiding it is never. Killer of clothes. Dopo diverse telefonate, durante le quali la base ha richiesto informazioni sul tempo, sulle condizioni di atterraggio e sullo stato mio e del mio allievo, hanno trovato un pilota disposto e in grado di effettuare il volo. L'elicottero arrivò il giorno dopo, nelle prime ore del mattino, quando il sole scaldava le scogliere con un colore dorato liquido. Non sono mai stato così contento di sentire un elicottero in lontananza. Quando è sceso a prendere il mio allievo, il pilota ha rischiato che i pattini dell'elicottero rimanessero invischiati nel fango, il che lo ha spaventato un po'. Per fortuna il ghiaccio dal mio lato era più solido, così sono stato più facile da recuperare. Abbiamo volato per un breve tratto fino al nostro campo. Ci siamo affrettati a raccogliere i nostri effetti personali essenziali, poi siamo saliti a bordo dell'elicottero per tornare alla base. Siamo arrivati alla base di Resolute Bay verso le 5 del mattino. È stata l'unica volta che l'ho vista così tranquilla. I corridoi dei dormitori erano vuoti e la squadra del mattino aveva appena iniziato a preparare la colazione nella cucina comune. L'infermiera del posto ci ha controllato e, dato che mi ero infortunato di nuovo al ginocchio, mi sono stati somministrati degli antinfiammatori e un impacco di ghiaccio per ridurre il gonfiore. Al mio allievo invece è stato dato qualcosa per calmarsi, ma per fortuna non aveva segni di ipotermia, grazie a quella coperta di stagnola. Sono sceso alla sala di controllo della base e lì ho ringraziato tutti per quello che avevano fatto. Mentre mi addormentavo, pensai che se questo incidente ce l'avessimo avuto ai tempi dei primi esploratori artici, le cose sarebbero andate molto peggio di così. Nei giorni successivi ho lavorato con i responsabili della base per organizzare un viaggio di ritorno al ghiacciaio per ripulire il nostro campo. Ci andai con lo stesso pilota di elicotteri che ci aveva salvato, ma il mio allievo non venne. Disse che non avrebbe mai più messo piede su un ghiacciaio in vita sua. Io mi sentivo malissimo per il fatto che il suo amore per il lavoro era stato definitivamente danneggiato da questo episodio, ma sapevo di non poterlo riparare. Una volta arrivati al campo, ho sentito tutto il peso del nostro fallimento. Mentre imballavamo una cassa piena di attrezzatura e la portavamo in volo fino al campo base. Poi ho messo tutta la nostra attrezzatura personale sul sedile posteriore dell'elicottero e abbiamo viaggiato per 3 ore fino alla base. Mentre sorvolavamo il ghiacciaio, pensai che la stagione dei campi era finita. Non saremmo più tornati. Non sono mai più andato nell'Artico dopo quel viaggio. Non avevo il budget per spedire l'attrezzatura e la gente su al nord e non volevo più pianificare la logistica per un campo così remoto. La nostra ricerca fu finalmente pubblicata 9 anni dopo e dimostrò che l'acqua di fusione della superficie del ghiacciaio aveva sicuramente fatto scorrere il ghiacciaio più velocemente. In tutti questi anni non ho mai più sognato l'Artico, anche se so che le mie avventure hanno avuto un piccolo ruolo nella lunga storia dei ricercatori che hanno cercato di studiare il ghiaccio. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets. Ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. Such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. Si intitola The Secret Life of a Scientist at the End of the World, la vita segreta di uno scienziato alla fine del mondo. È pubblicato su Narratively, che è un magazine di storie che appunto racconta e raccoglie storie prese un pochettino dappertutto nel mondo. Questa in particolare è una sezione dedicata alla scienza, nella quale gli scienziati stessi per lo più raccontano delle loro esperienze. Se avete voglia di leggere qualcosa, il sito si chiama Narratively, con la Y finale, narratively.com, e ci trovate anche questa storia. la vita segreta di uno scienziato alla fine del mondo. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare le vostre storie dei diari dalla quarantena. Linee d'ombra. E andiamo a Madrid oggi, andiamo a Madrid a scoprire come vive questa quarantena un giovane uomo, un ragazzo che si chiama Lorenzo. Questa è una storia che racconta di una storia iniziata nel momento sbagliato, perché si parla di un amore che è un amore che, essendo già giovane, fresco, è in bilico e purtroppo la lontananza non aiuta. Nella storia Lorenzo ci aveva mandato l'intero scambio, le due mail tra lui e la ragazza che è in questione. Erano molto lunghe e in inglese, quindi Lorenzo, me lo perdonerai, le ho dovute togliere, ho tenuto solo una frase di lei che, diciamo, è abbastanza indicativa del senso di tutto il suo messaggio. Quindi ovunque voi siate, ora immagino a casa vostra per lo più, ora dimenticatevene, venite con me, andiamo con Lorenzo, andiamo a Madrid. Vivo a Madrid, mi chiamo Lorenzo, ho 31 anni. Sono tornato di nuovo qui a novembre 2019 dopo una convivenza andata male e un anno e mezzo tra Dublino e Lisbona. Ricordo perfettamente com'è stato l'inizio del blocco, che io speravo arrivasse il più tardi possibile o perlomeno dopo il weekend del 13-15 marzo. Era un mercoledì pomeriggio, ascoltavo ormai tutti i giorni le notizie che arrivavano dall'Italia e mi sorprendevo di come qui a Madrid tutto fosse percepito così lontano. Tutto era normale, gente in strada, negozi pieni, anziani impavidi. Ricordo però quel giorno perché l'OMS aveva dichiarato lo stato di pandemia. Per me era stato il primo giorno in cui lavoravo da casa, ma come ripeto, tutto sembrava ancora sotto controllo in città. Mi auguravo con tutto il cuore che il blocco potesse effettivamente cominciare a partire da lunedì 16. Tuttavia, la situazione è precipitata nel giro di nemmeno un giorno. Iniziarono a circolare voci sulla chiusura della città, sul non poter più uscire da Madrid. Il controllo compulsivo dei giornali mi dava speranza, che però si è dovuta adeguare alla realtà, quando la mia azienda mi comunica ufficialmente che sono assolutamente sconsigliati viaggi, anche prenotati, nei paesi maggiormente colpiti dal coronavirus. Tra questi paesi c'è la Francia. Il giorno seguente, venerdì, avrei dovuto prendere un volo per Nantes e raggiungere Rennes per passare l'ultimo weekend con la mia ormai ex ragazza, prima di dirci addio. Ho conosciuto Chloé a giugno del 2019 a Lisbona. Io ero lì per lavoro, lei in vacanza. Adrenalina pura, storia a distanza, dopo una settimana insieme a Lisbona. So che incontrarci per salutarci ci avrebbe fatto male, ma non vederla sarebbe stato peggio. Stabiliamo di dirci addio martedì 10 marzo. Non voglio dilungarmi troppo sulle motivazioni. Io ho 31 anni, lei ne ha 22. La distanza, le prospettive di vita completamente differenti. Io con un lavoro che non mi piace e che cambio città in continuazione. Ne ho cambiate 10 in 10 anni in cerca di non so che cosa. Lei che ha appena iniziato a studiare informatica e rimarrà a Rennes per 3 anni. Un sentimento che cresce e che non ci fa più sopportare il fatto di essere lontani e di non poter condividere la quotidianità. Il non vedere più un futuro che possiamo effettivamente afferrare. Capisco che non posso andare a Rennes, è troppo rischioso anche per lei. La possibilità di essere contagiati nel viaggio, di contagiarla, di tornare e dover restare in quarantena 2 settimane senza una giustificazione da poter dare all'azienda qualora fossimo tornati in ufficio. Insomma, decido che non posso andare. Ci chiamiamo per dirci addio. Poi ci scriviamo entrambi un messaggio per salutarci ancora. Questo è il suo. Lorenzo, I will go to sleep soon. I just wanna turn off my phone. Lorenzo, andrò a dormire tra poco. Voglio solo spegnere il mio telefono e ricordare tutti i bellissimi momenti che abbiamo condiviso insieme. È un po' come se una parte di me fosse morta stanotte. La mia quarantena inizia quindi venerdì 13 marzo ed è caratterizzata inizialmente da un groppo costante qui sullo stomaco dovuto al fatto che Chloé mi manca. So che non devo parlarle perché abbiamo deciso di non farlo, ma non sentirla mi distrugge. In aggiunta a questo ho bisogno di una nuova routine che mi dia forza e motivazione. Finito di lavorare mi aiuta l'allenamento quotidiano, mi alleno anche 2 volte al giorno, lavoro permettendo ovviamente, e 3 volte alla settimana in videochiamata con i miei amici. 3 di loro sono a Fermo, che è la mia città natale nelle Marche. L'altro si collega da Pittsburgh, Stati Uniti. Molto spesso sta guidando per lavoro e si connette solamente per salutarci, farci vedere e sognare l'America. Appuntamento fisso è poi la chiamata con il mio amico Giacomo, che si è trasferito da poco a Vancouver, in Canada. Con lui parliamo più di problemi esistenziali, ma è così da 20 anni e ci siamo abituati. Dopo cena sento i miei. Videochiamo mia nipote di 4 anni. Mi manca tantissimo. Vorrei tornare a casa, ma non posso perché ho la residenza in Spagna e tornare in Italia sarebbe un rischio, anche da un punto di vista legale. La cosa più triste è il non sapere quando potrò farlo, ma bisogna accettarlo. Prima di mettermi a letto e guardare qualcosa, fumo la mia sigaretta ascoltando Jeff Buckley, affacciato alla finestra. Dopo una settimana di silenzio, Chloe mi ha scritto. Ci siamo chiamati, abbiamo parlato un po'. Ci diciamo che stiamo soffrendo, che è dura vivere senza l'altro. Ho bisogno di lei tanto quanto so che non dovrei sentirla. Sento che è un prolungare la sofferenza. Sentirla vuol dire rimanere con la testa e il cuore lì. E ho l'egoistica paura che un giorno sarà lei a dire basta, a non dirmi più che mi ama. E io dovrò accettarlo. Time takes care of the wound, so I can believe. You had so much to give, you thought I couldn't see. Gifts for boot heels to crush, promises deceived. I had to send it away to bring us back again. Your eyes and body bright and silent waters deep. Your precious daughter in the other room asleep. A kiss goodnight from every stranger that I meet. I had to send it away to bring us back again. Morning theft, unpretended left, ungrateful. Accept this love. Friendship battered down by useless history. Unexamined failure. E non poteva ovviamente non scegliere Jeff Buckley, il nostro Luca Micheli, dopo che era stata letteralmente chiamata da Lorenzo nella sua storia, visto che la sera si ascolta Jeff Buckley, ha proprio voglia di immalinconirsi Lorenzo, ha proprio voglia di rimanere lì in quel mood, in quella sensazione, visto che ascolta Jeff Buckley e fuma guardando fuori dalla finestra. Ma ovviamente gli facciamo i nostri auguri, grazie per aver condiviso la sua storia e insomma stai forte e al sicuro, come ci auguriamo che tutti quanti stiano facendo in questo momento, altrimenti il rischio è quello di entrare in una spirale, che è la storia che ci sta raccontando Irene, la storia seriale che Mauro Pescio ha raccolto 2 settimane fa e che ci sta raccontando passo dopo passo. Irene si è ammalata di Covid-19, si è ammalato prima il marito, poi si è ammalata lei, hanno dovuto prima allontanare il figlio di 8 anni e lasciarlo da sua sorella. Il marito è stato ricoverato, al pelo è stato ricoverato perché stava molto male, hanno trovato un medico che trovasse il modo per fargli arrivare un'ambulanza sotto casa e lei è stata ricoverata pochi giorni dopo. Non stava malissimo, ma lei era ed è incinta e questo ovviamente può essere un aggravante. Fin dal mio arrivo hanno cominciato a farmi la terapia retrovirale con antimalarici e l'idrossiclorichina insieme all'ossigeno e alla tachipirina per abbassare la febbre. Io, vista la mia gravidanza, non ero molto d'accordo. Ho provato a spiegarmi, ma sembrava proprio che non ci fossero alternative. Chiaramente io non avrei voluto prendere, io non sono stata una gran buona paziente per loro, perché non avrei voluto prendere niente di farmaci, perché comunque una incinta, prendere i farmaci contro l'HIV, i farmaci contro la malaria... insomma non avrei voluto prendere proprio niente di tutto questo e quindi ho fatto un po' d'ostruzionismo, coraggio, se ci ripenso mi dispiace, perché uno deve anche lottare contro i pazienti, però è stato un po' così. Per questo dico, questa dottoressa ha avuto anche particolarmente pazienza, insomma, su certe cose ma anche lasciato fare. Ho sopportato tutti quei farmaci a malincuore solo un giorno, in cui non riuscivano ad abbassarmi la febbre e la dottoressa aveva deciso di somministrarmi un antibiotico in vena. Dissi: no, io non posso prendere tutta quella roba. Lì si è avuto anche un po' di scontro, ma insieme a questi momenti di grande stress ci sono stati anche degli altri incontri molto preziosi durante i giorni passati in ospedale. Il personale era tutto gentilissimo e in particolare c'era un'operatrice sociosanitaria del primo turno che tutte le mattine entrava alle 5 del mattino. Vedendomi incinta e senza niente, aveva preso l'abitudine di portarmi qualcosa di cui potesse avere bisogno. Non so nemmeno che volto abbia questa persona, ma tutte le mattine partiva da casa pensando di portare delle cose proprio a me. Mi ha portato il sapone, mi ha portato un pacchettino con dei kiwi, mi ha portato una crema. Mi ha portato un sacco di cose. La mattina questa arrivava a orari assurdi col pacchettino, me li lasciava lì su una sedia e andava via. Cioè, veramente delle... che in quel momento forse non è facile capirlo, ma quegli oggetti hanno un valore che non è solo il valore economico dell'oggetto, diciamo, è proprio un gesto. Poi, insomma, per una persona che comunque parte la mattina all'alba di casa per fare un lavoro in quella maniera, tutti chiusi in quelle tute, eccetera, quindi questa è partiva di casa pensando di portare qualcosa a me lì. La situazione emotiva era abbastanza pesante in quel momento. Eppure in ospedale l'atteggiamento di tutto il personale è stato davvero qualcosa di determinante per superare la situazione. Dovendo loro urlare per farsi sentire, si partecipava un po' a quello che succedeva nelle stanze vicine, quindi sentivi qualcosa, non magari le parole, però sentivi la gente, che c'era chi piangeva, chi non ce la faceva più con l'ossigeno, c'era un'altra ragazza incinta con l'ossigeno che stava male. Non sentivi il nome, ma avevi l'impressione di quello che stava accadendo. Come stavano andando le cose lo percepivi, e come si è comportato tutto il personale, dalla signora delle pulizie al primario, fa parte strettamente della nostra vicenda umana. E noi ne approfittiamo del racconto che Irene ha fatto a Mauro Pescio e di tutta la storia che ci sta raccontando, ne approfittiamo per ringraziare anche noi tutto il personale sociosanitario, tutti i medici, gli infermieri, tutte le persone che lavorano negli ospedali, che lavorano per gli ospedali, per quello che stanno facendo. Ho visto, come se ne vedono in giro moltissime di interviste o di testi o di post, di moltissime di queste persone che dicono: non siamo degli eroi, perché insomma gli eroi fanno altro, ma stiamo semplicemente cercando di fare al meglio il nostro lavoro e ci piacerebbe che fossimo messi nelle condizioni di farlo. Credo che questo sia il modo migliore per ringraziarli e per rispettarli, magari mettere da parte la retorica facile, che in questi momenti è proprio facile perché la si fa o da un divano o da una poltrona in uno studio televisivo, e cercare invece di trovare il modo per far sì che queste persone possano lavorare come al meglio devono lavorare. E comunque sia, grazie davvero per tutto quello che fate. Io ringrazio appunto Mauro Pescio, che racconta questa storia e che scrive questo programma insieme a me, grazie ad Anita Panizza che tiene insieme tutti i pezzi, grazie a Luca Micheli che sceglie le splendide musiche di Linee d'Ombra, grazie a Paolo Corleoni che mette insieme ogni pezzo di suono di questo programma. Io do la linea al GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!